Alzo i microfoni. Callow Lake 13. Bene, bentornati sulla caldissima Radio ZM. Ma no. Sono ma le no. 19 in punto. Perfetto, siamo in, in fuso orario Radio ZAM. C'è il fuso orario Radio ZAM. Qua ci sono 43 gradi all'ombra. Sì, infatti... c'è il ventilatore che sta spingendo aria calda e io mi sto asciugando perché sono tutto sudato, che abbiamo fatto le pulizie fino adesso. Roar. Esatto. Roar. E... beh, molto bello. Guarda, oggi abbiamo il primo ospite utile. Ti rendi conto? Non so se sarà utile. No, non so se ti rendi parla conto. Parla anche. No, non so se ti rendi conto. Cioè, io sono entusiasta di questa cosa. Praticamente oggi qua con Greta è la prima volta che abbiamo un ospite utile. Forse. Che però in un programma inutile, utile per inutile, da inutile. Che è un bene, che è un bene. Esatto. Che è un succedendo... bene perché noi siamo, cioè, quindi rientri nella categoria. Sta succedendo anche una cosa incredibile, nel senso che finora soltanto Zona Rossa ha tenuto botta per così tanto tempo e mi trovo davanti a un programma che sta doppiando malamente Zona Rossa con, a livello di continuità, a livello di... cioè cresce, ragazzi, cresce di puntata in puntata. Alla quarta puntata c'è già l'ospite in presenza. Capito? E adesso lascerò della suspense, creerò dell'hype. Senti quante parole così, quanto sento, quanto sembro altisonante mentre dico tutte queste parole un po' foreste. E per creare dell'hype faccio presente che Greta è la prima, ma a cui seguiranno anche degli altri ospiti, perché c'è chi si sta iniziando a come dire, mettere a disposizione della scienza inutile. Tipo il ventilatore, che è un quarto ospite d'eccezione per oggi. Sono sicuro che sentite la sua presenza nelle cuffie dove state ascoltando la radio. Potrebbe essere, non però... è monsonico, per quanto esatto. La regione in cui si trova ZAM e lo studio di Radio ZM sia interessato da fortissimi fenomeni monsonici. Lui no. Ma oggi no, però abbiamo gli SMS che arrivano. Sì, esatto, ci esortano sui nostri numeri privati a guardare il Telegram della radio, perché vi ricordo che abbiamo questo strumento importantissimo su quale potete molestarci H24, che è su Telegram e lo trovate con chiocciola Radio ZAM trattino basso chat, e abbiamo Guglielmo che ci dice: non diciamo cazzate, Zona Rossa non lo batte nessuno e nessuno. Guglielmo. Chissà perché ha risposto a sta cosa. Guglielmo, eh. È vero. Ma è vero, però, cosa che è tre mesi che ci grattiamo. Da quando non c'è Cigo a rimettervi in riga, non è più la stessa cosa. Eh sì, perché è un po' che non facciamo telefonate. Oggi mi sa che subentrerò a gamba tesa durante i ginnastica. No, comunque non è vero, anche perché l'ultima volta... Cigo. Ci sta. Così a caso, gli chiederemo delle vongole. Ci sta. E tra l'altro Zona Rossa in realtà è fantastica, ed effettivamente anche le ultime puntate, per quanto non abbiano chiamato Cigo, sì, esatto, e quindi sicuramente è stato una cosa abbastanza drammatica, però effettivamente a sua volta hanno avuto ospiti importanti in studio. Sì, devo dire che sia in studio che in spirito, esatto. C'è stato Franco ed è stato molto bello. Esattamente. Sì. Quindi ringrazio solamente l'ospite, ci arrivano altri messaggi, quindi Greta ti ringraziano perché sei venuta qua, al contrario nostro. Io direi che secondo quello che dice la nostra regista, posso mettere la sigla? Ah, sono io la regista? Certo, sì, ovvio, io sono un tecnico, misero tecnico, esatto. Certo, io sono regista e direi di mettere la sigla. Così. E mettiamo sta sigla. We'll be right back. Insomma, bentornati e bentornate. Finalmente ripetiamo: ginnastica per sala d'attesa riempie il palinsesto di Radio ZM. Cioè, ginnastica e l'auto DJ ormai. Non è vero, assolutamente. Ma sicuramente la qualità, insomma, si nota. Quindi ringraziamo anche l'ospite. Esatto, la infatti ospita. Oggi siamo la ospita, non essere binario. E niente, effettivamente, perché che cosa è successo? Che oggi siamo finiti, oramai stiamo passando in rassegna abbastanza tutti gli spicchietti, e in particolare siamo finiti sul casella verde, cioè scienza e natura. Esatto. E chi meglio di Greta, la nostra ospite, poteva farci compagnia in questa cosa, poiché ella è studiosa di scienze naturali e pertanto ha delle competenze in materia. Ciao Norberto, saluta. Ciao a tutto il pubblico di Radio ZAM. Madonna. Che credo come al solito sia numerosissimo. Dici il vero, grazie mille. Grazie, Norberto ci ha dato la sua benedizione. Adesso possiamo andare avanti serenamente, direi. E a questo punto passare a svelare l'argomento di oggi. Allora, l'argomento di oggi è vasto e variegato, ma in realtà riguarda una specie barra più specie animali. Potevamo partire chissà dagli animali più pucciosi in assoluto, da delle focchette o dei cagnolini carini, e invece no, noi abbiamo deciso di partire con un esserino un po' meno simpa magari, ma molto buono, che è nel cuore e negli stomaci di tutti noi, e che è la vongola. E quindi, parleremo di vongole e di bivalvi in realtà in generale, perché la vongola ha delle cose da dire, ma è anche un po' timida e si sente di poter condividere il palcoscenico con altri protagonisti. Ma partendo giusto per presentarla, diciamo, la nostra amica vongola, la vongola è il nome comune utilizzato per identificare svariate specie di molluschi bivalvi della famiglia delle Veneridae. Il termine vongola, tanto perché voi lo sappiate, per quanto sia diffuso nell'intera penisola italiana, ha in realtà un'origine nella lingua napoletana. Lo sapevi? No. Lo sapevi? Questo no. Vedi? Deriva dal latino concula, diminutivo di conca, ossia conchiglia. In tutto questo arrivano dei messaggi con scritto: dici di più sul bivalvi. Bravo. Sono una classe, adesso stai calmo. Stai calmo, per favore. Ecco. Giovane ascoltatore della radio che non sappiamo perfettamente chi sia. Vi ricordiamo che potete scrivere, chiunque può scrivere, a non soltanto queste persone qua, bruttissime, ma anche altre persone più belle, a @ Radio ZAM _chat su Telegram. Esattamente, o a scrivere a noi o direttamente al fastidiatore telegrammesco in questione. Potete scrivergli: ginnastica per sale d'attesa spacca di brutto. Se volete può partire una shitstorming adesso, così. Esatto, subito. Ci sta. Prego. Detto questo, appunto, la cosiddetta vongola nostrana è la camelea gallina, chiamata vongola o lupino, diffusa nel Mediterraneo, Mar Caspio e Atlantico occidentale, ma nella stessa categoria fanno parte anche la vongola verace, e anche molto diffusa sul territorio italiano un'altra specie importata, aliena quindi, che è la vongola verace filippina. Sarà un caso, dico io? Attenzione! Dico io, sarà un caso? Non penso proprio. Detto questo, in realtà della stessa, diciamo, categoria, che non si dice categoria, si dice famiglia, probabilmente ci sono oltre 400 specie. Quindi Detto questo, la nostra, diciamo, vongola è di colore bruno, biancastro, grigio, con macchie, strie bianche, brune e violette, e la taglia massima raggiunge intorno ai 4,5 cm. Questo è tutto quello che avevamo da dire sulla vongola. Così abbiamo presentata, lei sta serena lì in un angolo. Ciao vongola, grazie. Esatto, a questo punto, siccome insomma lei... la apprezziamo tutti nella pasta, poi devo dire che sinceramente cercare notizie sulle vongole online ti ha fatto venire fame, è complicatissimo, perché bisogna fare uno slalom, sì. Perché è quasi solo lì da andare all'Esselunga a comprarle un attimo, giuro, è quasi solo ricette praticamente, e l'unica cosa che al limite si trova è come pulire per mangiare, quindi praticamente tu devi cercare di beccare le notizie che ti riguardano. Tutto d'un tratto so cosa faremo stasera a cena, così che dopo andiamo all'Eurospin a fare un giro. Sì, sono tra l'altro sono una specie particolare endogena, sono le vongole dell'Eurospin. Esatto. Sì, nascono... Le puoi trovare blu e gialle. Esatto. Se le trovi di colore sono le più buone. Esattamente. Quindi è così, anche questa è l'evoluzione della specie. Libero mercato. Esattamente. E niente, quindi a questo punto però diciamo che il passaggio successivo è parlare di bivalvi, che è... aiutami, una classe, esattamente, una classe che racchiude tutti i molluschi caratterizzati dall'avere due pezzi di conchiglia che si chiudono, bivalve, esattamente, quindi praticamente c'è il filum dei molluschi, giusto? Me lo sono scritta? Sì. Spacca, ok, e all'interno di uno dei subfilum ci sono i bivalvi. Sì. Ok. E tra l'altro avevo visto che nella stessa cosa c'erano anche i gasteropodi, per sì, esempio, che sono un'altra classe. Ci sono tantissimi nei molluschi, E tra l'altro, cioè, però i gasteropodi sono anche, cioè sono sia di terra che di mare, sì, perché sì, tipo la chiocciola, le chiocciole, le lumache, anche di terra, sì. Invece dipende. I bivalvi no, loro sono solo marini. No, marittimi. I bivalvi sono solo... Sì, anzi, possono anche essere di acqua, esatto, dolce, però sono solo marini. Esattamente, quindi in realtà... tra l'altro avevo visto anche un'altra cosa, aspetta che te la trovo, rispetto al fatto che la presenza di una resistente conchiglia calcarea ha fatto sì che si conservassero un sacco di fossili di questa roba fondamentalmente, e che questa cosa... sia stata trovata, cioè diciamo che i fossili più antichi sono del Cambriano, che è praticamente di 540 milioni di anni fa, e c'erano già le vongole, capito? Cioè c'erano già le vongole praticamente. Chiaro. E tra l'altro leggevo anche che questa cosa è molto comoda, perché il fatto che ci siano così tanti fossili in così tante stratificazioni diverse, diciamo, della Terra, e che ci siano tuttora, fa sì che ci sono un sacco di studi su come si sono evolute, visto che, esatto. Sì, certo. Quindi fighissimo. Quindi praticamente già primo check, cioè prima cosa a cui serve la vongola, è che si fa studiare. Cioè, è che comunque ci sta. È molto utile per capire come è cambiata nel tempo, come ha reagito a certe situazioni geologiche, terrestri, biologiche. Ci sta. Ma tra l'altro ho una domanda, scusami così, giusto per... Ma tipo tu, l'argomento bivalvi che maneggi con tanta sicumera, sì, in che esame l'hai studiato? Geologia, cioè quando si studia? Si studia, nel mio caso, di scienze naturali, in zoologia sistematica degli invertebrati. Ok, e quindi è, cioè, sistematica perché si vedono, sì, tutte... Sì, sistematica perché si studiano, no, le classificazioni di genere, appunto filum, ordine, famiglia, mentre la zoologia generale è l'introduzione a tutti i sistemi riproduttivo, nervoso, respiratorio di tutti gli animali in generale. Okay. E poi fai la sistematica degli invertebrati e la sistematica dei vertebrati. Ok, e sono esami sbatti. E sono esami sbattissimi. Molto sbatti. Invertebrati molto di più di vertebrati, sì, chiaramente. Invertebrati è un carico di studio immenso, di metà animali che devi anche sforzarti di capire che animali sono, perché non li hai mai visti e mai oh sentiti. Mio Dio, sì. E okay. Sono sì, tutti insettini e... Vabbè, no, poi i molluschi sono carini rispetto a molti altri film studiati. I molluschi sono carini. Li mangi, quindi esatto, esattamente. Carini e buoni anche. Buoni, belli e buoni. Guarda, è il caso di dirlo. Tra l'altro, effettivamente, in tutto questo mi faceva ridere perché io ho immagine della vongola esattamente, cioè dei bivalvi in realtà esattamente nelle dimensioni in cui siamo abituati a vederli nel mare, quindi non lo so, le vongole, le cozze che sono un po' più grandi, i cannolicchi che sono quella cosa un po' di disgusto. Buoni anche i cannolicchi. Non mi piacciono, però insomma, tutto sommato rientrano proprio. Esattamente, yeah, infatti dopo te lo volevo chiedere. Però più o meno sono tutti grandi nello stesso, cioè più o meno nella dimensione di una mano, ecco, così me ne immagino. E invece ho scoperto che le specie più piccole misurano pochi millimetri, ma la specie più grande conosciuta ha una larghezza di oltre 1,20 m. Ma di cosa? Di bivalve. Stai scherzando? Sì, si chiama Trinacna gigas. Trinacna gigas lo è. Ma se mangia? Ed è sai che non lo so, secondo me è una roba, perché no. Effettivamente l'ho anche vista, praticamente ha le due valve, scusami, giustamente, ha le due valve tutte a zig zag fondamentalmente, ed è cicciona, cioè proprio il mantello in mezzo è un palmo intero ed è bella grossa. Bella cosa. Un metro e venti spinge. Un metro e venti spinge, quindi state attenti a come parlate delle bivalvi, perché potrebbe venire il fratello maggiore a farvi brutto. È così. O la sorella esatto. maggiore in questo caso. Da un altro oceano. Esattamente. Quindi chi lo sa. A questo punto io direi... No, infatti ti volevo chiedere proprio questa cosa dei cannolicchi, che sono un po' strani, mi faceva strano che facessero parte dei bivalvi, perché i cannolicchi sono quegli affari che sembrano dei tubetti praticamente. Sì, sì, conficcati nella terra. Esatto, e quindi le due metà, cioè sì. C'è intorno a due metà, quel sì. tuc gigante. Sì, okay. quel tuc. Comunque anche quando li apri, io ho visto poi un signore mangiarseli crudi, li apri, li dividi in due, c'hanno le due valve, perfetti. Yeah. Ho capito quali sì. sono. Sì, mi ama di far cotti col sughetto. Sono quelle sorte di grissini che sì. Come si chiamano questi? Cannolicchi. I cannolicchi, perfetto, sì. Li fa gratinati sì. al forno. Madonna. Anche. Lasciamo perdere. Insomma, mi fanno un po'... Davvero? No, sono buoni. Non lo so. Quindi questo bellissimo programma di cucina di Radio Slam esatto. andando avanti, possiamo mandare un pezzone che ho visto che hai messo in scaletta. Ma infatti posso dire, allora, la l'attitude oggi è un po' chill, groove. È super chill. Funky. Esatto. E nello specifico ci sono un tot di pezzi vecchi, ma ce ne sono anche un tot di pezzi nuovi o rimaneggiamenti. Uno di questi, in realtà due di questi, sono di un talentuosissimo DJ chiamato Amerigo Gazzaway, che fa dei potentissimi mashup, e questo nello specifico, questo che arriva fra poco, e arriva da un CD dei Fela Soul, che è quindi un mix fra Fela Kuti, un mashup fra Fela Kuti e della Soul, e nello specifico questo è un feat con Redman e si chiama A me Fela Soul l'hai fatto conoscere te. Spacca. Adesso è spacca. Un l'altro sacco. È da un altro CD, dopo ce lo sentiamo perché spinge anche quello. Yes. Mine. spend too much time. Straight talk with the cats that ask my line. Walk, never fetch it for crime. Huh, who goes there? There was a squeeze of five fingers puffing smoke to the bed. Shining black like Darth Vader caps, they on stairs. While we rocking it, I rocking it. Like the little ball inside the spray can. Providing three coats for both child, woman and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall and go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. You got popped like a flick by that rivalry click and win. Ooh, ooh, it ain't my fault your ass is on the asphalt. Got your chin touched by my family. Thought you brought harm, you see. I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies, digest cookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can be. Why try? Maceo be getting high since Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like you shorties who claim an Afrocentric loving is the pasture. My life filled with that's what thugs love. That you fast wrap that ass in the rug is your choice while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Black faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews oppose current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the UNIversity. Before I hit it, yo, real. I got niggas in the street that'll blast your ass for the shine again. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. If you a fat chick, getting your fuck on tonight and go. Ooh, ooh, yo, ooh, put ooh, your hands opposite to the ground. If you're loving that sound, go. Ooh, ooh, ooh, yo. And to my broke niggas on the corner holding me down, go. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I swear Tommy gon' get it, he done did me wrong. I had plans to buy more land, plant corn, soy kernels on heat. Work hard like wetbacks, setbacks, gon' get my ass P-hostile. Drop wallet of beat, top dollar to feet. Uh-huh. Big money's make the big decision. Keep hip hop alive, it's just an intermission. Yeah. Back to the second half of the feature flick, thick stacks of fire. I had a name for making paper since paper mache. Now my dollar coins join, comes again for play. While you broke niggas reach drunk much quicker. You don't make enough bread to soak up all your liquor with God to God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it, invest half the million in. Rap cats talk with no sounding like they virtual. This sure to hurt you, yo. But the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Shook all the goodies up from under the tree. Except the CDs and shiny suit raps and flossing MCs. Who fail at taking it to rhyme the game. For the whack phones, get no plan. I hope you need to not get nappy with me. Or else we don't relax your mind. Let your conscience yo, be free. Yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands, go. Ooh, ooh. To my women gotta throw their hands against their punk ass man. Go. Quanto spaccava? Quanto diciamo spaccava la verità. Quanto, diciamo cioè, la verità. Quanto io l'ho spaccava doppiata, devo fermare tutto per metterla. Sì, sì, no. Fela Soul, Fit Redman. Cercatevelo, cercatevelo. Tra l'altro, Amerigo Gazzaway spinge un sacco di musica gratuita, quindi potete trovarlo e scaricare i come i pazzi proprio gratuitamente. E questo è molto bello, noi apprezziamo molto. Allora, a questo punto, visto che giustamente Fela Soul sono venuti a, come dire, a inserirsi all'interno della puntata, noi cambiamo e andiamo direttamente a parlare di quella che è, com'è fatta effettivamente, un bivalve, una vongola, ma anche gli altri. Allora, intanto, se io ho capito bene, la conchiglia è fatta principalmente di carbonato di calcio che arriva dall'acqua del mare, sì. È vero? Sì, sono tre strati di conchiglia che sono il periostraco, lo strato prismatico e lo strato perlaceo, madre perlaceo. Sì, madre perlaceo. Ok. E quindi, uno di questi è fatto di carbonato che di calcio. Fuori? No, che è quello, no, quello intermedio. Okay. E anche lo strato madre perlaceo fatto di aragonite, che non è calcio, però è sempre un carbonato. Quindi. Però arriva, quindi arriva dall'acqua e. Yeah. Sì, sì. Quindi sì, loro sì, intorno sì a ciò si fanno la loro conchiglietta. Tra l'altro, a partire correggimi se sbaglio, anche qua, dal lumbone. Esatto. Che è un po' tipo, se avete presente le vongole, è tipo quel malleolo che c'è là sopra. Sì, sì, sì, da lì... le forze, esatto, è proprio la curvetta iniziale. Esattamente. E da lì fondamentalmente inizia a stratificarsi, andando avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, il resto della conchiglia. Sì. E quindi il motivo per cui ci sono tutte le striscette longitudine, latitudine, sì, diciamo parallele, sì, rispetto al lumbone, perché sono i vari, gli vari step, sì, della, sì, di accrescimento. Pensa, della, pensa alla vongolina alla fine, sì, che sbattimenti che si fa, sì, piano piano, cioè noi siamo lì a chiapparcela negli spaghetti, però lei si è fatto un bello sbattimento per fare questa cosa. Esatto. Esattamente. Ed effettivamente queste due cose sono unite fra di loro da una sono incernierate, effettivamente, sì, queste due valve. Infatti la cosa si chiama cerniera o cardine perché a vederlo sembra effettivamente la cerniera della porta, sì, cioè, sì, fondamentalmente la stessa è logica, è proprio una cerniera fatta di materiale proteico. E infatti in quella parte della, durante la costruzione della conchiglia, in quella parte viene secreto più materiale proteico che carbonato di calcio, e quindi è questa cerniera vera e propria che permette, fondamentalmente, esatto, serve a chiudersi dentro, nel senso che il la congiunzione fra le due valve permette di chiuderla quando è permette di chiudere, esattamente, perché ci sono i muscoli adduttori, esatto, che mi fa straridere perché ce li abbiamo anche noi, no? Sì. Quando uno va in palestra fa oggi ho lavorato di brutto sugli adduttori, come le vongole, che se non avessero i muscoli adduttori praticamente rimarrebbero lì con la loro conchiglietta aperta, spalancata, e quindi esatto, non sarebbe molto utile. Sarebbe uno sbattimento inutile. È bello perché in tutti i bivalvi chiaramente hanno i muscoli adduttori, e in un sacco di conchiglie, comunque appunto vongole, cozze che mangi, è visibile la macchia del muscolo adduttore contro la conchiglia. Quindi poi la perché, vedi anche, esatto, perché dall'interno poi, cioè, se noi diciamo fino adesso ce la siamo immaginata, io fino adesso personalmente me la sono immaginata con le righette, no, da fuori esatto, come siamo abituati a vederle, però all'interno effettivamente se guardiamo l'interno della valva, sì, ha tutti i segnetti di dove erano I muscoli, vedi i dentelli della cerniera, se si differenzia, vabbè, questa è, se hanno i dentelli uguali o non uguali. E sì, quindi da dentro vedi proprio bene l'anatomia. E vedi tra l'altro anche tipo, cioè vedi, sì, fondamentalmente tutti i muscoli li vedi all'interno, nel senso che sono quelli che si tenevano tipo come ventosati alla... Sì, sì, no, erano attaccati. Vedi l'ombra del muscolo che era attaccato, che quando era rilasciato, quindi non teso, era chiuso, e quando sono tesi lo apre. Capito che sbattimento che si fa. Ma invece volevo chiederti una cosa. Ma la madreperla, che cos'è? Perché... La madreperla è la reazione del bivalve a un'intrusione esterna, cioè praticamente. Ok, quindi, no, ma il fatto tipo quell'effetto un po' è sempre secrezione cangiante di carbonato di calcio, strato madreperlaceo, che è quello che gli dà l'effetto cangiante. È sempre secrezione di quella natura organica della conchiglia. Capito, cioè con quattro robe. Sì, sì, con quelle. Poi non so, tu se prendi dell'acqua. Non so se ci siano tutte e tre le componenti. Falla tu una conchiglia con l'acqua, tra l'altro. Tu, Lorenzo, sei capace di farla? Guarda, tu non la sai fare. 7 anni che ci provo, ma ancora niente. Ancora niente, raga. Niente conchiglia. Vabbè, rispetto quindi per i bivalvi che fanno la conchiglia. A questo punto io passerei all'interno, perché fino adesso abbiamo visto la conchiglia, ma dentro effettivamente c'è l'omino. Abbiamo visto che c'ha già che in palestra si fa gli adduttori. Ma ovviamente non è l'unica cosa che c'è. Allora, la prima cosa, non ha la testa, no, non ha un cervello, no, è acefala, quindi non ha una differenziazione della testa, esatto, rispetto al resto. E, perché tendenzialmente i molluschi sono formati da capo e piede, e nei bivalvi hai un arretramento, cioè non hai più la differenziazione, sono infatti acefali, sì. E non hanno neanche la radula, che è quella che usano gli altri molluschi per nutrirsi, che è quella con i dentelli, okay. Quel nastrino che infatti non utilizzano, ah, okay. Per sì. Infatti adesso vediamo come si nutre la povera vongola, anche perché sarà poi centrale per altri svariati motivi successivamente. Però diciamo che quindi non hanno una testa, ma hanno un sistema nervoso comunque, sì. Giustamente. Dopodiché hanno un liquido che non è sangue, che si chiama emolinfa. Sì. Ma tu ti rendi conto essere senza testa? Sì, cioè, effettivamente. Ma loro no. Tu sì. No, in realtà neanche io, perché non posso pensare di essere senza testa. Ma loro non lo pensano, però, certamente. Non hanno un cervello. Come la filosofia si interroga sulla vongola. Non lo so, quanto spesso lo fa, soprattutto. È pensante? No. Sa di esistere? No. Sa di essere in relazione a uno spazio. Bene. Perché ha dei meccanocettori, ha delle cose che le fanno capire che intorno a sé ha qualcosa. Quindi si nutre, cioè magari e non istinti. Sa di esatto. Ok. E si muove anche, infatti qua ti voglio, perché all'interno c'è il piede. Sì. Che fondamentalmente è quella cosa che sembra una lingua, che quando gli metti il sale davanti alle ostriche si slappano, sì. Tipo, in realtà è un piede, non è una lingua, che noi esseri umani stupidi pensiamo a questa cosa. Stupidi e golosi. Esattamente, perché in realtà è quella che viene estroflessa dalle valve per muoversi. O per scavare. Sì. Effettivamente nei molluschi il piede è molto sviluppato in generale ed è proprio il mezzo di locomozione. Nei bivalvi è arretrato molto insieme al capo, però è presente, è piccolino, cioè. E infatti in realtà si muovono così, addirittura leggevo che questo lo usano, diciamo, per muoversi, ma in realtà soprattutto per spingersi sul fondale o addirittura per scavare ogni tanto. Ma leggevo che ce n'era uno, adesso sto cercando nel frattempo perché sono stolta e non riesco a fare due cose contemporaneamente, ma alcuni bivalvi avevo trovato sono in grado di muoversi, per esempio hanno i pettini, aprono e chiudono le due valve nella conchiglia e praticamente si muovono a balzi nell'acqua, tipo, cioè nuotano, raga. No, questa non la sapevo. Nuotano, cioè io, vabbè, capito? Saltellano, zompettano per il fondale. Tutto ciò è meraviglioso. E, in realtà poi all'interno ci sono appunto, cioè il piede, quindi che è questa cosa che esce anche un po' fuori, no, per muoversi. Ci sono la varia sacca degli organi, sì. Che comunque ne è un tot. Sì. Che comunque ne è un tot, perché uno pensa che lì dentro invece... No, esatto. Stavo devi gustarne tutti gli organi quando mangi la tua. È la massa dei visceri che racchiude tutto, cioè l'escretore, la digestione, circolazione e riproduzione. Quindi diciamo abbastanza, oltretutto è bello differenziato. Sì. Cioè, lo sapevate? Secondo me nessuno di voi lo sospettava. Tra l'altro l'ultima cosa che manca a questo punto, quindi c'è la sacca dei visceri, il piede e l'ultima cosa è il mantello. Esatto. Che è una delle parti più skillate in realtà di tutto questo questione. Esatto. Perché, spiegamelo un po' bene, cioè è quella tramite, cosa che... Ok. Dire, cioè il mantello è una porzione del tegumento che tiene, collega la sacca, racchiude la sacca dei visceri e la collega alla conchiglia. Ed è quella, se non erro, in cui ci sono i due sifoni, cioè praticamente... Ah, ed è quella che se cerne la conchiglia, scusa. Brava, cioè, esatto. Stavo dicendo una minchiata, perché poi infatti l'ultima frase ero titubante, è proprio quindi quello che una parte che se super skillata, sì. In realtà. Sì. Cioè, quindi a partire dal lumbone il mantello fa fru fru fru fru. Esatto. Pazzesco. E se non erro, fondamentalmente, essendo la parte che collega con l'esterno la conchiglia, è quella che filtra, quindi che respira, che si nutre e anche che defeca liberamente nel mare, sì, probabilmente. Dipende dalle zone, esatto, sì. diciamo che esatto, si trovano lì, non è esatto. Il mantello no, fa no, tutte no, queste esatto. funzioni, le funzioni tipo i metanefridi, cioè gli antenati del rene del, ok. Si trovano sono tutti lì vicino perché, del mantello, esatto, sì. Perché è quella che sta fuori fondamentalmente. Sì, perché è quella che lo collega con l'ambiente, non lo collega con l'ambiente esterno perché se cerne sopra di sé la conchiglia, però è quella sì, che sì, espleta sì. tutte le esatto. funzioni. Beh, schillatissima. Allora, io a questo punto, dopo aver raccontato un po' come è fatta, passerei a parlare di cosa fa nella sua vita l'amica cozza, l'amica vongole, insomma, nel senso che vabbè, un po' l'abbiamo già detto, però insomma, giusto per poi per trovarne una quadra, volevamo recuperare un po'. Allora, intanto la prima cosa che fa è, abbiamo visto, poco, ma ogni tanto si muove, ma tendenzialmente in realtà, se non erro, ha una vita sedentaria bentonica, è vero? Esatto, sì. Che vuol dire? Bentonico vuol dire in ambiente marino è un animale che vive sul fondale. Sul Nettonico fondale. È uno che si muove nell'acqua, tipo tutti ah, i pesci, okay. Non tutti i pesci, okay. Pesci, squali. Ma ci sono anche, quindi ci sono anche dei non sedentari bentonici che si muovono, certo, tutti zompettanti. Sì, sì, sì. Per beh, il... I granchi sono bentonici. Okay. Non hai visto SpongeBob? Esatto. Sì, SpongeBob sul fondale, ma si cammina. Sì, sì, sì, no, giro. Però quello è una società già con diciamo con una differenziazione notevole di organi e di attività commerciali, diciamo, di vario genere. E, quindi in realtà, aspetta, perché mi ricordo che avevo visto che buona parte dei bivalvi sono sessili, sì. Oltre ad essere bentonici, sì. Che vuol dire? Che certo. Stanno sugli scogli? Che sono fermi, mi sembra. Cioè che non... Perché penso sessili nel senso che non hanno... Ah, che stanno ferme? Sì, che okay. Non si muovono troppo, sessili o... Ok. A così adesso, sincero, non... No, no, sai niente, che potrebbe essere intuito... Perché effettivamente dice che vivono ben ancorate ad un sostrato sì. roccioso o comunque in generale senza spostarsi. Sì. Sì, posso, tipo anche quei cannolicchi sono sessili, cioè si anco, si infilano perché nella in realtà, terra. Infatti, perché in realtà fondamentalmente, adesso poi ci arrivo perché dopo volevo chiederti tutta una serie di cose perché mi fa straridere, ma fondamentalmente in età adulta, quindi i vari bivalvi si chiappano sul terreno e rimangono lì. Alcuni scavano per terra e poi rimangono lì, comunque in linea di massima rimangono lì. Sì. Ma, e qui arriva un altro pezzo che volevo capire, quando sono piccoli invece nuotano tipo fino a che non si appoggiano per terra, ma io non ho, sinceramente mi fa sempre un po' ridere, nel senso che secondo me noi abbiamo un tabù tale per cui anche solo cercare di comprendere il... come dire, la riproduzione di altre razze, che, cioè di altre specie che non hanno niente a che vedere con quella umana. Ci fa comunque venire mal di testa, però. Ci fa sempre un po'... Strano. Non so, sempre un po' quella curiosità che però sembra un po' morbosa. Dici, ma... mentre come chiedi, si farà a essere così? Ma come si fa? Non posso rinunciare come al mio cervello. Esatto, quindi non ho capito, cioè... Perché ho capito che sono a la loro riproduzione è sessuale perché hanno... tendenzialmente generi sessi separati. Sì. Ma cioè, come avviene questa riproduzione? Allora, nelle specie di acqua dolce incubano le uova lasciate in acqua, quindi è una fecondazione esterna. In quelle marine è o interna o esterna e vengono incubate nello spazio interlamellare, però non ah ok, comunque non diciamo non ci, loro non si salutano, no, non si salutano quando passano, no. Niente love story. Vabbè, ha già tanto da dire e da dare, ma comunque lo è magari in quel momento lì, dici che è ispirato, perché magari c'è cioè, la avviene, dici che anche... tu dici avviene internamente perché uno passa di lì, però rilascia qualcosa sì. E non c'è contatto, no, okay. Tendenzialmente no, visivo almeno ma se non no, hanno temo non abbiano gli occhi, cazzo, questo, è vero. No. Questo rende hanno tutto complesso, hanno degli statocisti che magari dicono che di fianco a lui c'è qualcosa, o lui o lei c'è qualcosa, cioè, però... vedi, quello è il momento, è quello, è lì l'amore. la chimica. Esatto, la chimica, esatto. La chimica. Quando esatto, si dice, cioè, ma chimica. Con quella persona è proprio una chimica, è quella, esatto. È quella lì, è, no? È quella delle vongole, esatto. È quella delle vongole. Allora, un'altra roba, infatti, volevo sapere proprio questo, infatti, era sulla percezione del mondo esterno che arriva tramite chemiorecettori e meccanorecettori. Che vuol dire questa cosa qua? Sì, i meccanorecettori sono recettori statici che ti dicono cosa c'è intorno a te, okay. Se sbatti contro qualcosa, cioè hai la relazione di te e dell'ambiente. Ok, tipo un radar. Cioè, non diciamo, so, fermo rispetto a te, ma intorno ti segnala che cosa c'è? O se, solo se si muove? Non ne ho idea, oddio, questa è una domanda. Cioè, so che hanno questi statocisti che sono questi meccanocettori. Però okay. Non so che segnalano l'ambiente. E invece i chemiorecettori sono questi, cioè che sono vedi quelli che c'è una femmina chimica. O un maschio. No, i chemiorecettori sono recettori di natura chimica, quindi okay. Penso che ti segna, cioè la non so se l'ambiente attorno a te è troppo salata, l'acqua è troppo salata, okay. Se okay, percepisci qualcosa, penso di questo genere. Fico. A questo punto, niente, hanno le branchie. Hanno le branchie per respirare, ma le branchie, se non erro, trattengono anche il cibo. Sì, infatti sono usati anche con funzione di filtro, cioè di filtro alimentare per le particelle in sospensione, che poi perché vengono si nutrono di microplancton, sì. E mini detriti organici di varia natura, giusto? E li filtrano. Sì, e li filtrano. E infatti, in realtà, buona e poi parte di quello che fagocitano nello stomaco tramite esatto fagocitico. Perché c'è la sacca, esatto, come, digestione intracellulare. Quindi a quel punto, tra l'altro, a proposito di cose tabù, no vabbè, questo è un po' meno tabù, però la mia anima delle eleme sta un po' ridendo dentro di sé. Praticamente ho letto che non fanno la cacca solida perché sennò rischia di tornargli indietro e di impedirgli di filtrare la cosa dopo. Ah. Non so dove l'ho scritto. È incredibile. Non so dove l'ho scritto, raga, ma è questa. Guarda, le feci sono solide per evitare che vengano inalate dal mollusco stesso, rendendo più difficoltosa la respirazione. Ah, ok, sono solide. Sono non, più solide, non sono, sì, okay. Sì, sì. Non sono liquide apposta per. Sì, raga, così. Adesso abbiamo scoperto anche come fanno la cacca. Come fanno i bivalvi. Esatto. Non siete contenti? Io sono entusiasta. Beh, sì. Non sono entusiasta. Io sono entusiasta, in realtà adesso poi a breve forse metterei un'altra canzone volendo, ma come ultima cosa, perché poverina in realtà la vongola nasce, cresce e poi a un certo punto, ahimè, la pescano. La pescano gli esseri umani, ma anche in realtà un'altra serie di predatori marini. Cioè lei ah, è lì, okay, bella certo. Cillata sul coso, però sul fondale, però a un certo punto arriva, praticamente arriva la stella marina. Ah, sì. Sa magna. Ma va. Sì. Poi arrivano anche gli artropodi acquatici, che però non so quali siano. E i molluschi cefalopodi. I cefalopodi, che, sì. Che sono i tipo i totanini. No. Ma penso che anche il polpo. Anche il polpo, mangia. Sì. Esatto. Tutti a mangiare. Tra l'altro. Tra ma l'altro. Con guscio, con tutto. Se sì, lo mangiano sono, con tutto. Sono degli animali che hanno un apparato boccale apposta per saper mangiare crostacei. C'hanno tipo anche il becchetto. Ma tra l'altro non solo, perché adesso questo è il mio il momento dedica su YouTube, no? Alle vongole. Allora, esatto, perché in realtà ci sono tutta una serie di animali, anche di pescetti che sono specializzati nel rompere le valve e mangiarsi, cioè con i denti e mangiarsi il suo abitante interno. E c'è un video bellissimo su YouTube che adesso non potete guardare dalla radio, però nel caso vi dovesse capitare di passeggiare su YouTube, è il pufferfish, che è il pesce palla, mm-hmm. Che mangia con nonchalance una serie di vongole e fa ghignare di brutto, guardatevelo. Ah. Guardatevi questo video, è bellissimo. Mettiamo una musichina? Mettiamola, guarda, Upside Down, mamma mia, pezzoni. Upside Down, Diana Ross. Upside down. you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully, I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. There's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round. Instinctively, you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, upside down. Boy, you turn me inside out. Round, upside down. Boy, you turn me inside out. And round, round, upside down. You turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. I said upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and around, you turn me, I say to be respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. Upside down, you turn me. Tantissimo. Questa era Diana Ross, niente poco di meno che. Molto bello. Molto bello, perché l'altro giorno io e Greta stavamo ascoltando un po' di musica chill mentre lavavamo i piatti e ho detto perché no, perché non proseguire, esatto, così queste vibes. Allora, io in realtà a questo punto vorrei passare a come dire, una serie di cose un pochino più applicate, diciamo, al di là dell'anatomia, perché tutta questa cosa di questa puntata nasce da un articolo che avevo letto tempo fa su quanto le vongole, le cozze facessero fossero utilissime come diciamo in svariati ambiti rispetto all'inquinamento. E la prima cosa che ho scoperto, quindi mi sono letta ovviamente di più di questa cosa qui, e la prima cosa che ho scoperto è che siccome, come dicevamo, i molluschi hanno filtrano sia per respirare che per mangiare, sono degli ottimi bioindicatori. Che cosa vuol dire? Che nelle loro branchie, che filtrano l'acqua a scopo respiratorio ed alimentare, vengono trattenute tutte le minuscole particelle inquinanti con cui fondamentalmente gli schifiamo tutto il territorio dove vivono. E quindi analizzando questi molluschi si può capire quanto l'acqua è pulita o sporca. E questa cosa mi è sembrata molto intrigante, perché insomma questa vongola, che già oramai ci aveva stupito in svariati modi, a questo punto ha anche un effetto abbastanza benefico. E quindi mi sono andata un po' a cercare fondamentalmente come funziona questa cosa dei bioindicatori. Fondamentalmente che cosa succede? Che tipicamente si usavano indicatori chimico-fisici, quindi robe fatte artificialmente, che venivano messe nell'acqua e in questa maniera veniva percepita quale fosse la natura della pulizia dell'acqua. A un certo punto hanno capito che gli indicatori biologici associati a questi indicatori chimico-fisici potevano essere molto utili, perché diciamo a conseguenze, allora mettiamola così, delle concentrazioni che sono inferiori a quelle misurabili con le, diciamo, gli strumenti artificiali, che comunque hanno dei risultati a livello biologico, possono essere indicati in questa maniera. Quindi che cosa vuol dire? Che fondamentalmente con lo strumento artificiale loro beccano da 5 in su, ma in realtà anche con 2, con un mini schifino mega piccolo, dalla vongola si vede. E quindi in realtà, anche se non sono altrettanto efficienti sotto alcuni altri punti di vista, permettono uno studio molto più ampio e effettivamente oltretutto possono prevedere in questa maniera, cioè guardando dentro le vongole, possono, come una palla di cristallo, guardano dentro le vongole invece che nella palla di cristallo, e riescono a capire fondamentalmente quali sono le cause di stress sull'ambiente. Che storia! Hai visto? Capito? Stai male. Pazzesco. E praticamente questi indicatori possono essere suddivisi in 2 modi, che in realtà sono poi stati mischiati in una nuova disciplina che si chiama ecotossicologia, che è fighissima. Fondamentalmente gli indicatori biologici sono quelli ecologici, cioè indicatori biotici delle acque e la diversità di specie, e quelli tossicologici, che beccano gli indicatori di, insomma, sono i test di tossicità. Sì, di inquinanti. Okay. Quindi loro hanno creato, nel 69 è nata questa nuova cosa che unisce questi due approcci, che si chiama ecotossicologia, ed è una disciplina trasversale che si avvale di chimica ambientale, tossicologia ed ecologia. E fondamentalmente quello che fa questa roba è di non solo vedere separatamente i vari comparti, cioè l'acqua, l'aria, gli organismi, i suoli, i sedimenti, certo, vederli, ma esatto, ma vederli come visione di sistema. Sì, sì, sì, come è l'ecologia. Infatti non penso sia proprio fondamentale che ci fosse l'ecologia, che ti dà la visione dell'habitat e del sistema intero. E infatti oltretutto, e dice, in tutto questo c'è anche quella cioè la tossicologia ambientale, che cerca di capire in relazione appunto all'inquinamento quanto il danno abbia fatto non solo ad una determinata specie, ma all'intera struttura. Quindi sì. Questa cosa qui è molto figa, e può essere utilizzata, appunto possono essere utilizzati i bivalvi, e tra l'altro farlo in svariati momenti, cioè sia quando sono uova, che quando sono embrioni, che quando sono larve, che quando sono adulti, nel senso che sono buoni indicatori di tossicità, sono organismi di cui si hanno conoscenze biologiche approfondite, che sono facilmente reperibili. Per i test è possibile impiegare stadi molto sensibili del loro ciclo vitale, nonché disporre di endpoint, qualsiasi cosa voglia dire, facilmente osservabile. E quindi in realtà, praticamente, se ho ben capito, si riesce a prevedere bene, nel senso che sono organismi che sotto alcuni punti di vista sono molto semplici, si riesce a vedere esattamente la differenza. Sì. Con un gruppo di controllo, sì. Fondamentalmente. Sì, esattamente. Ok. Si presta bene, perché è semplice, è facilmente reperibile, si conosce molto bene. e soprattutto si conosce da tanto, come dicevamo prima, quindi si hanno veramente tutta l'evoluzione nei 500 milioni di anni. Quindi giustamente sì, uno a un certo punto può cercare di capire quanto male abbiamo fatto. Esatto, quanto male ha fatto questi inquinanti. Ho trovato il corso di laurea, se qualcuno interessa poi lo mando in chat. Beh, figo però. Comunque raga, secondo me è veramente una mossa. Tra l'altro adesso arriva il momento... Sarà importantissimo poi, penso, con l'andare avanti del tempo, perché... Ma infatti, stanno distruggendo già adesso un sacco di ecosistemi, quindi... Esatto, ma infatti adesso arriva il momento terrorismo psicologico, perché ci sono tutta una serie, per lo stesso motivo, diciamo che tutto questo gira intorno al sistema filtrante, che è il motivo per cui ne abbiamo parlato per prima, dei bivalvi, no, in generale, e quindi ovviamente il fatto che loro filtrino tutto quanto fa sì che si possano usare per tutta una serie di cose. In realtà non è l'unica questa. Il fatto di essere bioindicatore non è l'unico utilizzo. Dopo ve ne spoilererò un altro. E, altrettanto, cioè il motivo per cui sono particolarmente pericolose se provenienti da acque non pulite, è evidente. Cioè, a un certo punto, ahimè, se quello che mangiano fa vedere quanto sporco c'è nell'acqua, se ci mangiamo noi quelli che si sono mangiati lo sporco che è nell'acqua, tendenzialmente ce lo chiappiamo su tutto. E quindi arriva il momento terrorismo psicologico, con i pericoli sanitari che possono derivare da delle pesche un po' ardite, un po' troppo ardite, diciamo, nel senso che ahimè ci sono tutta una serie di virus che si infilano dentro questi graziosi e deliziosi animaletti. Ai noi anche la salmonella solita, e Escherichia coli per lo stesso motivo, cioè che arriva da dove l'acqua non è pulita, perché ci arriva la fogna fondamentalmente, nel senso che è quella che c'è nella cacca, se non erro. Sì. E quindi giustamente, se l'acqua non è pulita perché c'è uno scarico fognario, le vongole si mangiano quello che arriva e ai noi purtroppo se la tengono dentro, diciamo, fondamentalmente. E altrettanto fanno con tipo i metalli, fondamentalmente, quindi tutti gli scarichi che arrivano dai siderurgici, il piombo, il cadmio, il mercurio. E cosa che è successa in realtà, nel senso che dopo in realtà mandiamo un audio, però sì, con calma, ma fondamentalmente ci sono state tutta una serie di problematiche in una zona che tradizionalmente era di forte pesca e allevamento di vongolo, che è la zona dell'altissimo Adriatico, prevalentemente, esatto, in tutta la zona di Chioggia. Raga, io sono andata a fare la gita col battello nel delta del Po, che poi finiva siamo andati poi a Goro a vedere gli allevamenti di cozze. Vedi, di vongole, infatti adesso guarda, non lo sapevo, ma molto bello, perché adesso non so, sarei contenta di sentire come funziona. E in realtà nello specifico effettivamente lì c'erano tutti un botto di problemi, perché c'erano un sacco di fabbriche super mega inquinanti, e prima fra tutto inquinante top seller Marghera è stata la diossina, e ovviamente c'è tutti gli animali del mare ovviamente hanno risentito parecchio di questa cosa, in particolare le povere cozze, le povere vongole, che giustamente si ciucciavano l'acqua. Sono filtratrici, sì. E quindi insomma, questo è uno sbattimento. Ma un'altra cosa che a questo punto ti richiedo è rispetto, perché ho scoperto che ci sono un sacco di rischi, anche diciamo un sacco dei rischi relativi alla intossicazione da biotossine algali, perché ci sono un sacco di alghe che si chiappano su praticamente delle tossine varie, e loro giustamente si filtrano le alghe. Ma una cosa che ho scoperto è che, adesso ve lo leggo perché è notevole, dice: attualmente tale problema, cioè questo di chiappare sulle le tossine dalle alghe, sta assumendo dimensioni preoccupanti per l'aumento del numero di alghe tossiche dovuto ad un'eutrofizzazione delle aree marine costiere e la progressiva diffusione di fitoplancton in nuove aree geografiche attraverso ad esempio l'acqua di zavorra trasportata dalle navi di carico. Cioè praticamente le navi di carico aprono l'acqua e trasportano un miliardo di questi cosini ovviamente minuscoli, quindi man mano, anche se cioè diciamo spostano proprio l'acqua. E a questo punto io ho detto ci sta, ma questa eutrofizzazione di cui parla che cosa diavolo vuol dire? E ho scoperto che e mi fa molto ridere questa cosa, infatti, vabbè, che è l'eccessivo accrescimento degli organismi vegetali. E uno dice bello, ottimo, e invece no, perché praticamente si ha per effetto nella presenza dell'ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto, fosforo, zolfo, che arrivano da fonti naturali o dagli esseri umani fondamentalmente, quindi tutti i fertilizzoni, i detersivi, gli scarichi vari. E quindi fondamentalmente il fatto che per una volta tanto il fatto che ci siano tante piante o tanti nuovi organismi non va bene, è molto molto male. Quindi niente, così sbatti, sì, alterare in qualsiasi modo un ecosistema, cioè comporta poi questo. Quindi tra l'altro c'erano abbastanza, appunto, a questo punto io ti chiederei di mettere i primi momenti, è un servizio che ho tirato fuori da un qualche telegiornale e in realtà consiglio agli stomaci molto forti un documentario che aveva fatto Shusha, il programma che c'era su Rai 2 nel 2000, che si chiama Nero di Vongole, ed è un tutto su YouTube, è un documentario che appunto attraversa l'annosa questione di Marghera ed è veramente torrido. Cioè se volete guardarvelo mettetevi un attimo nella condizione di volerlo guardare, nel senso che c'è stata una catastrofe dal punto di vista ambientale e fra le altre cose uno dei diciamo protagonisti di questa cosa erano le vongole, per l'appunto, che avevano una consistenza tipo oleosa e si spezzavano, erano tutte nere, ricoperte da una patina nera terribile, da cui il titolo Nero di Vongole, più o meno diciamo afferente sempre alla stessa cosa. C'è questo servizio, questo pezzettino di servizio che mandiamo adesso. A Venezia è il turismo che muove l'economia, ma poco distante, sotto le acque della laguna, si muove ben altro. Quello delle vongole è un affare colossale che storicamente nasce quasi per caso. Qualcuno comincia a pescare le vongole e poi si intuisce che il commercio si sviluppa molto rapidamente. In effetti, dalla fine degli anni 90, il business delle vongole ha mosso tanti interessi e un giro enorme di denaro. La raccolta delle vongole avveniva in maniera così spregiudicata che l'amministrazione provinciale di Venezia, nel 2005, ha istituito il GRAAL, un ente che ha l'obiettivo di porre fine alla pesca selvaggia delle vongole nella laguna. Ci sono regole precise sulla raccolta delle vongole e la laguna è suddivisa in zone verdi, date in concessione alle singole cooperative di pescatori, e zone rosse, zone assolutamente vietate. Dalle prove documentali e analitiche che noi abbiamo fatto in tutti questi anni, risulta che le vongole pescate nei canali industriali dimostrano delle elevate concentrazioni di diossina e policlorobifenili, vorrei sottolineare, sono delle sostanze genotossiche ritenute cancerogene e che possono avere degli effetti a lungo termine sulla salute umana. A Venezia viene focalizzata l'attenzione sulle vongole perché le vongole vengono purtroppo ancora pescate abusivamente nei canali industriali che sono stati per decenni oggetto e ricettacolo di rifiuti tossici persistenti scaricati dalle attività industriali di Porto Marghera. Dunque il problema è la pesca illegale nelle acque proibite, quelle dove i livelli di diossina sono altissimi. Questa pesca avviene soprattutto di notte, quando è più facile sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Torridissima questa storia. Praticamente spesso e volentieri in questi casi quelli che andavano a pescare le loro vongolette andavano nelle zone proibite e poi le rivendevano prima che questa cosa potesse essere scoperta e o addirittura le spostavano nel loro allevamento e la mattina dopo le pescavano da lì. Cioè, pazzesco. Questa cosa è veramente orripilante e pazzesche anche le registrazioni così che mandiamo, devo dire. Devo dire che proprio ci piacciono tanto. Io sì, mi emoziono ogni volta. Ma infatti a questo punto io direi, perché mi stavo dimenticando un pezzo importante, che quello che mi dicevi prima, cioè perché io sono curiosa a questo punto, visto che abbiamo mandato questo audio, di capire come si fa a pescare queste cose, cioè non pescandole da o come si allevano. No, si alleva. Okay. Esatto. No, io ho visto gli allevamenti e sono praticamente sono dei pali conficcati nel mare vicino comunque alla costa a intervalli regolari, c'è questa rete attorno al palo attorno a cui cresce e si sviluppa la cozza attaccata al palo tramite la famosa fibrina. Di cui adesso non mi viene in mente il nome, no, vabbè, però è quella. E niente, e quindi sono poi così, tirano e poi su direttamente tirano tutto su, il. Il palo rimane, tirano su poi tutto la rete. Che è contenuto nella rete. E quanto tempo ci vuole per allevare una cozza? Questo non lo so il ciclo vitale. Potremmo fare così? Potremmo andare a fare i vongolari e i cozzari. Certo che puoi. A assolutamente. Goro. Possiamo andare? Minchia. Sì. Non trovi un ambientino molto, diciamo, un po' tra l'altro c'è un film bellissimo, no, proprio come paesino, non trovi un ambiente molto simpatico, diciamo. C'è un film bellissimo, mi chiamo Lì? No, non lo so, no, io pensavo Vittorio De Seta, però anche quello, no, molto più che se andiamo lì io vengo lì con la videocamera e faccio Più recente, c'è un film con Paolini? Sì. Molto bello. Come si chiama? Mi chiamo Lì, il mio nome è Lì. Una non cosa del genere. Molto bello, consigliato anche quello. E quindi in realtà appunto vengono pescate, ma in realtà non è l'unico modo in cui vengono sfruttati i bivalvi, perché ci sono due cose. Una la conosciamo tutti e una secondo me non la conosce nessuno e questa cosa è bellissima. Una è le perle, evidentemente. Nel senso che l'inserimento di un agente esterno dentro di un corpo estraneo all'interno delle valve fa sì che l'animale sviluppi subito questo strato protettivo che diventa poi la perla. E leggevo fra le altre cose che normalmente, però ovviamente il fatto che sia così fa sì che le perle all'interno hanno la forma più o meno del detrito che è entrato, no? Sì. Però sì, noi sì, siamo sì. abituati alle perla, invece a vederle tonde. Anche quelle del levamento. Ok, perché vengono inserite dentro dei sassetti sferici? Sì. Okay. Perché così si forma lo strato perfettamente sferico attorno e hai la perla che sei abituato a vedere, quando in realtà sì, le perle naturali non sono regolari. Certo. Pensa te. E l'altra cosa che invece ho scoperto, che in realtà avevo già visto tempo milioni di anni fa, perché è una pratica che ha una lunghissima origine storica, nel senso che già nell'antichità si utilizzava ed era una cosa molto in voga fra la mega upper class degli antichi romani e prima, anche babilonese e siero, è il bisso, che è la cosiddetta seta del mare. che praticamente è una fibra tessile di origine animale che nasce dai filamenti, cioè diciamo ottenuta dai filamenti secreti da alcune specie di molluschi bivalvi che si chiamano pinna nobilis, e praticamente fanno questa sorta di filamento che viene utilizzato, viene filato, ed era un mestiere molto antico, e adesso io l'avevo visto perché c'era tipo l'ultima sarta del mare, perché è una cosa che hanno mantenuto solo in Puglia, e comunque vedi in Puglia, nel territorio tarantino. E fondamentalmente con la appunto avendo in mano e tirando e strecciando in vari sensi questo filamento, si ottiene una sorta di seta. Che figata! Che aveva, sì, cioè, è pazzesco, veramente è pazzesco. Cioè, si ricavavano pregiatissimi e costosi tessuti con i quali probabilmente si confezionavano tessuti e vestiti e vesti ostentati come veri e propri status symbol già nella società babilonese, assira, fenicia, ebraica, greca e romana, quindi non dei dementi. Esatto. E tra l'altro in tutto questo, per diciamo arrivare alla perfezione, la ciliegina sulla torta, e che ha anche delle spiccate proprietà terapeutiche ben conosciute dai pescatori, i quali la utilizzano per la sua potente proprietà emostatica, e quindi era utilizzato per la medicazione delle ferite che i pescatori si facevano con le reti da pesca. Capito? E tra l'altro si la stanno studiando per usarla anche in ambito medico operatorio, per non rimarginare, cioè avevo letto un articolo in cui è oggetto di studio. Sì, emostatico. Per sì. Incredibile, incredibile. Cioè, sì. Capito? E noi come dei babbi stiamo lasciando l'ultima sciuretta nella provincia di Taranto. Molliamo già il progetto di Goro e andiamo dalla sciura della Tarantina, perché secondo me ha un sacco di cose da raccontarci. E infatti a questo punto, per diciamo riportare un po' di tanta gioia, perché per adesso abbiamo parlato di, no vabbè, di Bisso abbiamo parlato, quindi spaccavo, però diciamo che abbiamo parlato un po' di tutto il problema inquinamento e quanto questa cosa sia drammatica, ma a questo punto cerchiamo di fare la fine, la facciamo un po' simpa, cioè con delle cose un po' più belle, nel senso che ho trovato tutta una serie di articoli sull'utilizzo invece in chiave ecologica di queste cose, e ho scoperto che fondamentalmente un metro cubo di sedimento colonizzato da cozze garantisce la filtrazione di circa 2 metri cubi di acqua al giorno, quindi potente. Minchia, sì, potentissimo. Potentissimo, cioè la Unio Elogantulus, che già ha un nome bellissimo, che è una cozza nostrana comune in Italia, filtra in media 40 litri di acqua al giorno. Sì, questo me lo ricordavo, che filtrano tantissimo, non filtrano così tanto, tantissimo, ma filtrano tantissimo. Incredibile, e quindi non a caso questa cosa ha fatto sì che tutta una serie di persone con diciamo un cervello e delle nozioni per sviluppare queste cose abbiano utilizzato quindi le vongole a scopo, come dire, benefico. Ma questo, ahi noi, si è scontrato con il fatto che no, in realtà no, scherzi a parte, si è scontrato con degli altri alieni, nel senso che anche qua ci sarà il problema del fatto che questa Unio Elegantulus, che poi quanto spacchi già a chiamarti Elegantulus, effettivamente, cioè sì. Elegantulus è non male, però purtroppo questa Unio Elegantulus, ci sono degli altri alieni che non sono in questo caso filippini, perché i filippini sono nel mare, mentre invece le cose di cui stiamo per parlare sono tutte di acqua dolce, il che rende ancora più potente questa cosa, perché il fatto che tu possa potenzialmente puntare alla ridepurazione di tutto un lago che inizia e finisce in un certo punto, spacca comunque, no, non è male. Purtroppo anche in questo caso il fatto che siano state inserite delle nuove specie, che sono in questo caso cinese, invece sono la vongola cinese e la sinanodonta, che anche lei però ha un nome che non è male, non è male. Però purtroppo loro in realtà sono state importate perché hanno una vita molto, hanno, intanto si riproducono più volte, si riproducono in di più e hanno una vita più breve, motivo per cui ovviamente a livello di come dire, a vendita e consumo sono più convenienti, ma ai noi in realtà filtrano molto di meno e quindi questa cosa ha fatto sì che bisogna, diciamo, rimportarle in tutta una serie di zone. Ma una delle cose che mi ha fatto più sorridere è che, cioè sorridere fino a un certo punto, ma che il Lago Maggiore, caro il mio presente, autoctono presente. Allora, uno dei primi esempi di applicazione, ascolta questa cosa che te la dice lunga su quanto in alto puoi puntare, ragazzo, ragazzo, punta in alto. Allora, uno dei primi esempi di applicazione delle cozze d'acqua dolce come indicatore di accumulo ci riporta al Lago Maggiore e agli esperimenti nucleari degli anni 60. Ah. Nel senso che la misura dell'accumulo di isotopi da fallout in unio permetteva di tracciare le ricadute al suolo di isotopi derivanti dagli esperimenti nucleari realizzati nel Pacifico. Sto male. Ti giuro, quindi infatti io quando ho letto la prima volta ho detto ma gli esperimenti nucleari degli anni 60 nel Lago Maggiore dove erano ubicati? Ed effettivamente invece no, cioè fondamentalmente ci sono degli isotopi che possono essere studiati attraverso le cozze d'acqua dolce che anche loro sono ancora più lasciate sole dalla cronaca dei media, dei mainstream, perché sono d'acqua dolce, quindi sono ancora di meno, povere, pensa che triste sorte. E invece loro già negli anni 60 fondamentalmente riuscivano ad acchiappare degli isotopi che provenivano dalle esplosioni nucleari fatte dagli Yankee maledetti in una qualche isoletta del Pacifico, che arrivavano fino al Lago Maggiore e si schiantavano fra le fauci delle cozze d'acqua dolce. No. Ma pensa passando per l'acqua? Passando per l'acqua. Cioè praticamente erano trasportate. A capire anche che questi isotopi poi cadevano anche, cioè se cadevano lì nel lago, certo, sono caduti anche dappertutto, certo, nel terreno, cioè grazie a quello hai visto che sono arrivati, mio Dio. Ed effettivamente i risultati scientifici allora conseguiti ebbero vasta risonanza e il riconoscimento della prestigiosa rivista Nature. Pensa al Lago rivista, Maggiore, ma non le cozze. Pensa al Lago Maggiore, capito? Che guarda che è ricchissimo, ricchissimo. Per forza c'è qualcosa sotto, è ovvio, cioè, certo. Questa cosa gli avrà dato un sacco di riconoscimento. Esattamente, infatti in realtà questa cosa ha fatto talmente scuola che a partire dall'86 tutte le aree costiere e i grandi laghi del Nord America sono sorvegliati all'interno di un programma mediante l'uso delle cozze per rilevare più di 150 inquinanti inorganici fino ai metalli pesanti, uso militare della natura, ed organici, sì, tipo DDT, pesticidi e batteri di vario genere. Non male, sono, sì, le cozze con la divisa USA, sì, Navy, cozze contro Navy, guerra batteriologica, capito? Cioè incredibile. E tra l'altro in realtà non è il solo caso perché in realtà c'è un altro interessantissimo caso, che è quello del Lago d'Orta, che comunque non è troppo distante tutto sommato, per niente, che è un laghetto prealpino a 290 metri d'altezza. E fondamentalmente che cosa è successo? Che questo delizioso laghetto fin dagli anni 20 del Novecento è stato martellato da praticamente tutti gli esseri umani nel raggio di 750 milioni di chilometri. Quindi in realtà nel corso del tempo furono rese invivibili le sue acque a causa degli sversamenti di solfati di rame e di ammonio prima della Bamberg, che era una industria tessile che faceva Rayon lì in quella zona. E a un certo punto invece negli anni 60 sono spuntate una serie di aziende che hanno arricchito il lago con un mix di sali di rame, cromo, nickel, zinco e altre svariate prelibatezze, E quindi ovviamente questa cosa ha fatto sì che diventasse nel giro di poco tempo uno dei bacini più inquinati del mondo, e quindi fondamentalmente sono stati studiati da tutti nel raggio di tutte, prima o meno tutte le nazioni che studiavano questa cosa, sono venute tutte al Lago d'Orta per vedere che cosa succedesse. Dopodiché però questa cosa ha fatto sì che a qualcuno spuntasse una lampadina dalla capa, e hanno progettato e diretto un piano di risanamento basato sull'utilizzo di enormi quantità di carbonati immessi in acqua, che avevano lo scopo di intrappolare i metalli tossici facendoli precipitare sul fondo. Quindi loro fondamentalmente hanno detto: ah, ce ne sono un sacco nell'acqua, ci mettiamo questi carbonati, e i carbonati se li inglobano, solidificano attorno agli inquinanti, e quindi esatto, e quindi cade giù per terra, contenendoli, e quindi questa cosa ha reso l'acqua più come dire meno tossica e meno inquinata. Ma il problema ovviamente rimaneva, perché uno dice: ok, cioè, da dentro l'acqua che erano li hai fatti cadere, adesso però sono tutti sul fondo, e quindi bisogna pulire i fondali. Come farlo? Con le cozze. E quindi, ricorrendo alla grande capacità di depurazione e di accumulazione di inquinanti delle cozze, hanno sviluppato questo progetto di Blue Biotechnology, qualsiasi cosa voglia dire, che è un progetto che si chiama RIS Orta. Non male, nata abbastanza di recente in realtà, cioè recente tipo una decina di anni fa scarsi. E fondamentalmente quale mette? Proprio la Unio Eleganthalus di cui prima. Cioè quella proprio cinese. Lei. Proprio, no, quella nostrana che è stata rimpazzata dalla cinese. Perché il problema della cinese è che avendo dei cicli di vita più corti, in realtà rilasciava, cioè ne prendeva di più, ma poi li rilasciava, sì, al momento della morte. E quindi fondamentalmente non servivano allo stesso scopo. E invece questa qui ha una vita molto più lunga, questa Eleganthalus, oltre ad essere Elogantola, è anche più longeva. E quindi praticamente sono state reimportate, cioè fondamentalmente cioè la purificazione dei sedimenti mediante le cozze, che fungono da depuratori naturali, e questa cosa permette allo stesso tempo di ricolonizzare queste cozze buone, diciamo le cozze autoctone. E fondamentalmente quindi il punto, cioè questo tentativo di biorisanamento, prevede la posa di gabbie di cozze che vengono prese altrove e rimesse lì, quindi vengono spostate fondamentalmente. E a un certo punto questa cosa prevede che ogni 6, 12, 18 mesi vengano tirate fuori delle cozze per capire quali sono stati i metalli tossici accumulati. Quindi ovviamente il fatto che lei viva tipo 5 anni permette di fare svariati cose nel corso del tempo, mentre invece quell'altra, che è molto più giovane, a un certo punto non riuscirebbe a svolgere questa stessa cosa. E tra l'altro questa cosa fa anche uso di microchip applicati alle conchiglie per dell'information technology. Quindi questa è la bellissima storia del Lago d'Orta, che comunque sta registrando degli ottimi successi in realtà, da questa cosa. Io infatti spero che sia pulita, perché ci ho fatto il bagno un sacco di volte, perché ci abitano i miei cugini al Lago d'Orta. No, chiaro, siamo... auguro. No, stiamo parlando di sversamenti degli anni 60. Io sono il maggiore, però ci piace girare, quindi molto spesso... Ma come? Con sì, tutta sì, la sì, creme della creme sì, che sì, arriva sì, dal sì, lago sì. Maggiore. No, dipende che sponda, dipende. Beh, sento del campanilismo. Ma dall'altra parte, perché noi abbiamo l'acqua peggiore e se facciamo finta che non sia così, però la parte di Arona piemontese non ha l'acqua così bella. Lago d'Orta ci vai perché ci sono dei punti in cui l'acqua è molto più bella. E poi le cozze, per non parlare delle cozze. Per non parlare delle cozze, anche se sono quelle cinesi, che quindi non vanno altrettanto bene. però gli vogliamo bene che lo però stesso. Fanno fitodepurazione, fanno, fanno fitodepurazione di fatto, come sì. I nostri girasoli, esattamente, e le nostre piante, alla fine e infatti sì, fondamentalmente lo scopo è lo stesso, cioè chiappare le cose da forse sarebbe anche bene provare a pensare di non buttarle più, ecco, la butto lì come suggestione, ovviamente ci mancherebbe, noi non capiamo niente di business, ma potrebbe essere un'idea magari smettere di rompere i maroni alle povere cozze e lasciarle lavorare e nutrircene alla fine, che mi sembra tra l'altro il momento antispecismo. Questo è il momento antispecismo di Radio ZM. Perché la cozza lo sa quanto tu possa essere felice, tu la lasci in pace tutta la vita. Lo sente dalla chimica. E il suo, cioè, il suo patibolo è il piatto. È il piatto. Esatto. È così. Esatto. Tra l'altro mi chiedono, noi dovremmo installare un interfono, che è un citofono che ci permette di comunicare con tutti gli altri reparti giù da basso, ma ci chiedono che pizza volete intanto. Io pizza alle cozze. Pizza alle cozze. Però solo se del Naviglio, se no non le voglio. Io filiera corta, cortissima. Metro zero. Zero, proprio ci devi inciampare davanti. Sì, esatto. Allora per me quella la nutria. No, scherzo. Esatto, allora abbiamo. Poi c'è quella che si chiama scolmatore, che è la preferita di Giulio. Esatto, egli uno scolmatore. Esatto, uno scolmatore. E quindi alla fine. Questa è pubblicità. Sai che non lo so veramente, adesso arriva no, il momento. Infatti sotto c'era, ci siamo fatti portare il depliante. Attenzione, potrebbe essere più complicato del previsto. Tra l'altro a questo punto io tra l'altro ho finito le cose da dire, devo dire la però verità. Però c'è una cosa che io volevo mandare che era molto carina. Che è, certo, perché in realtà a questo punto abbiamo un altro contenuto audio che non è una canzone. Ecco, nel frattempo sotto di me stanno cantando i Jackson 5, che sono qua che cantano in studio ma in sottovoce. Lo studio è sotto, per questo ho detto sotto di me. Esatto, sì. Sottovoce. Sì, Greta, dici, sei in diretta. Sei in diretta, puoi dirlo. Ovviamente tutta questa bellissima musica mi sa che dobbiamo fare come facciamo col programma dei ribelli, cioè che mettiamo la playlist sotto. Questa è un'altra idea. Infatti ci sono delle chicche comunque, devo dire. Fra le altre, no, beh, ce ne sono diverse. Poi dopo magari le mandiamo. Andiamo a mangiare una pizza, tra l'altro quale quindi mangeremo non lo so. Faccio partire l'altro contenuto. Allora, esatto, contributo punto, audio. Il contributo audio arriva da uno dei cartoni più gloriosi, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, ed è la favoletta del Tricheco. Ed è molto molto molto bella. Adesso la mandiamo, così nel frattempo decidiamo che pizza vogliamo. Il Tricheco è il carpentiere, ovvero la storia delle ostrichette curiose. Splendeva il sol sul nampio mar, pieno di volontà. Voleva far l'onde luccicar, raggiando in qua e là. E ciò benché la notte, ahimè, profonda fosse già. Andava il carpentiere col Tricheco a passeggiar. La spiaggia era vastissima e di sabbia aveva un mar. Signor barone, disse il primo, la sabbia non mi va. E in men che sia la portia mia, se lei mi dà una mano. Una mano? È giunta l'ora, fe il Tricheco, ormai di chiacchierar. Di cose buone da mangiar, di cavoli o di re. Di come il mare va in bollor, se i gatti san volar. Godiamo allor, ma che lavor! Siam cavoli o siam re! Festa, ostrichette, andiamo a passeggiare, giriamo un po', parliamo un po', che più si può anelar? E magari, cogliendo l'occasione, faremo colazione! Ma scosse, mamma ostrica, il capo è d'ammicco. Sapeva che i molluschi fanno gola anziché no. Girar perché? Sentite a me, restate qui. Gridò. Certo, certo, è giusto, ma... È giunta l'ora, amiche care, ormai di chiacchierare. Di cappellini, di sifon, di cavoli e di re. Di come il mare dà calor, se i gatti san volar. Orsù, allegria, venite via, coi cavoli e coi re. Bellissimo. Bellissimo. Allora, fondamentalmente andatevelo a guardare anche questo, è una di quelle storie totalmente prive di senso che abbondano nella storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, e ci sono un tricheco e un carpentiere che si vogliono mangiare delle piccole cozzettine vongoline che lo seguono, che li seguono affascinate da questi cialtroni. E a un certo punto il tricheco fa uno sgamo al carpentiere, cioè lo manda fuori per dirgli di prendere i condimenti, e mentre lui non c'è si mangia tutte le vongolette. Tutte. E piange. Sì. Piange. E piange, finge di piangere, ma in realtà è una persona orribile. I tricheco sono delle persone orribili. È vero, la Disney ce l'ha spiegato molto, molto bene. Sì, insomma. Sì. Quindi sì, io invece ho proprio, cioè, ho bisogno che mandiamo questa traccia, perché è sempre passata durante la puntata mentre chiacchieravate, non si è mai sentita bene. E io sexy sì. Va bene. Dopo va mandata. Vai. Comunque no, dopo con calma. Va bene, facciamo va bene. I saluti. Greta, grazie. Ma va, è stato molto bello. Quarta puntata di ginnastica per Ma stare poi guarda, sai che sono l'ospita. Stracontenta che sia stata con Greta, che è la prima volta che parlo sì, in radio. Sì, ci sta. Ci sta, e noi è la prima volta che abbiamo un ospite, quindi ci sta perfetto. Cosa che la radio c'è da un anno e mezzo. No, ci sta perché ha scelto me. Esatto. E quindi sono molto molto contenta. E tra l'altro, ovviamente, sei sempre benvenuta, sia quando cascheremo sulla casella verde che anche no. Possiamo dirlo che arriverà Ludovica ha già detto che salutiamo. Da settembre ci fornirà qualche perla, e quindi faremo delle puntate su Zoom. Sarà la che prima bello. Sarà la prima puntata su Zoom, e quindi ovviamente anche in quel caso sarai più che benvenuta. Certo. E in realtà tutti sono benvenuti, chiunque sì, voglia venire sempre, a dire delle cialtronerie o fare delle cose serie. Ascoltateci, ma passate anche qua, esatto. Abbiamo un fuso orario diverso, come dicevamo, quindi potete arrivare un po' all'orario che meglio preferite. E niente, chissà cosa adesso poi ne parleremo. Sì, soprattutto perché poi ci sarà anche una parte del mio contributo, che sono stato tirato in mezzo in qualche, certo. qualche colore, mi sembra di aver capito. Certo. Beh, ma certo. Che concerne le televisioni, lo spettacolo, lo show, e quindi vediamo. E infatti sarà divertente, raga. Sarà divertente, sono molto contenta di questa cosa. A questo punto salutiamo. Diciamo, mi raccomando, ciaone. Ascoltate Radio ZM, grazie diciamo a tutti, grazie TV Gulli anche. TV Gulli, grazie che ci ha scritto complimenti, chat. Raga, puntata bella e divertente. Wow. Cioè, TVB Gulli. Seguite i podcast, mi raccomando, sul sito di ZAM, lasciate la radio, il Telegram della radio, seguiteci tutti e tutto. C'è app. Sono sicuro che ci sia app in programma, adesso vi dico pure quando. App è segnato per il 29 agosto, ragazzi, 29 on air Radio ZAM. Eravateci ragazzi, perché ne vale. Ora beccatevi tutta Your Sexy Thing, tutta per voi. Grazie Chiara, grazie, ciao, grazie Greta, grazie, buona grazie, serata grazie, e buona Vika, cena. Grazie Greta, è stato molto bello. Anche per me. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. Sexy thing, sexy thing.